Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno e benvenuti alla quarta puntata del Pinsimonio. Il tema di oggi sono le forme di governo, di cui cercheremo di andare a chiarire le definizioni analizzando le parole repubblica, monarchia, dittatura, teocrazia e anarchia. Cominciamo con repubblica, che deriva dal latino res publica, ossia cosa pubblica. La repubblica è, con riferimento all'età classica, al medioevo e alla prima età moderna, ogni stato non retto da un monarca o da un dittatore. In età moderna è la forma di governo in cui il potere politico è detenuto, secondo criteri differenti, da un singolo capo dello Stato, o da un insieme di cittadini, Parlamento, eletti direttamente, con mandato temporaneo e non ereditabile da una parte più o meno estesa della popolazione. Si può quindi distinguere tra repubbliche democratiche, quando l'elezione dei rappresentanti del popolo avviene a suffragio universale, e repubbliche aristocratiche, dove invece è solo una classe privilegiata che vota. Esistono repubbliche unitarie costituite da un solo Stato, come la Repubblica Italiana o la Repubblica Francese, e repubbliche federali costituite da più stati federati, come la Repubblica Federale Tedesca. Repubbliche parlamentari, in cui il capo dello Stato ha poteri limitati e il governo risponde davanti al Parlamento. E repubbliche presidenziali, in cui il capo dello Stato, eletto a suffragio universale, è anche capo di governo e ha un'ampia autonomia decisionale rispetto al Parlamento, per esempio la Repubblica statunitense. Per estensione, la Repubblica è anche la comunità organizzata secondo il principio dell'assoluta parità tra i suoi membri e, caso singolare, è anche definita come uno stato di disordine e di confusione, dove esiste una mancanza di una linea di condotta unitaria e regolare. La seconda parola è monarchia, che è una forma di governo in cui i supremi poteri dello Stato sono accentrati in una sola persona, il monarca, la cui carica non è elettiva e che può anche essere affiancata da altre istituzioni. Esistono la monarchia assoluta, in cui il supremo governo statale è concentrato nel monarca, la monarchia costituzionale, quando accanto al monarca vi sono altre istituzioni sovrane, quali il Parlamento e il governo, che ne controllino il potere in base a una costituzione. Si distingue la monarchia costituzionale parlamentare dalla monarchia costituzionale pura, secondo che sia o no in vigore il principio parlamentare, ossia della necessità di un rapporto di fiducia fra esecutivo e legislativo. Monarchia, in senso più concreto, si riferisce anche al regime monarchico di un determinato stato o alla persona stessa del sovrano o alla casa regnante. Talvolta è il modo con cui l'autorità è esercitata da un sovrano o, per estensione, uno stato retto a regime monarchico. Continuiamo con dittatura, che è un regime politico caratterizzato dalla concentrazione di tutto il potere in un solo organo, monocratico o collegiale, che l'esercita senza alcun controllo, come per esempio la dittatura militare. In senso figurato è il dominio di fatto incontrastato di una persona, di un ente o di una categoria, come per esempio la dittatura dell'alta finanza o della grande industria. Viene infine definita come imposizione dispotica, intransigente della propria autorità, per esempio ribellarsi alla dittatura del padre. Da qui andiamo a teocrazia, che è un sistema statale o di governo in cui il potere è esercitato in nome della divinità da persone, in genere una casta sacerdotale, che si dichiarano sue rappresentanti per averne ricevuto da essa il mandato o che si presentano come incarnazione della stessa divinità. Nella storia delle dottrine politiche è la teoria e la prassi per cui il potere statuale e civile deve essere subordinato, anche se ne è separato, a quello religioso, sacerdotale o ecclesiastico. Attualmente le nazioni che presentano aspetti teocratici legali significativi sono, per esempio, l'Arabia Saudita, la Repubblica Islamica dell'Iran o la Città del Vaticano. Concludiamo con la parola anarchia, che indica la mancanza di governo come stato di fatto, sia per assenza di un valido potere a causa di rivoluzioni, sia per inefficienza dell'esercizio del potere da parte di coloro che ne sono investiti. Per estensione è l'ordine o la confusione o lo stato di un luogo dove ciascuno agisce a suo arbitrio e senza ordine o regola. In senso storico-politico è la dottrina che propugna l'abolizione di ogni governo sull'individuo e soprattutto l'abolizione dello Stato, da attuare eliminando o riducendo al minimo il potere centrale dell'autorità. Sviluppatosi nella seconda metà del secolo XIX, il movimento anarchico sostiene un estremo decentramento dei poteri amministrativi della società, affinché i lavoratori possano organizzare da sé la proprietà e l'amministrazione dei mezzi di produzione.